tanto per usarla. Quando pensi di essere l'unico e invece tanti stanno urlando insieme a te. Quando nulla va più bene, sempre uguali sono i suoni e le parole che hai intorno. Quando senti le tue braccia così forti che solleveresti il mondo con un dito. Hai iniziato a percepire che ci sei. Quando guardi per vedere non osservi quello che ti attira l'attenzione. Quando i profumi hanno ormai la scorciatoia con i tuoi più bei ricordi. Quando ancora tu ci credi e mai nessuno ti farà cambiare idea. Quando la paura lentamente cancella le tue idee come fosse un lento carro armato. Hai capito che esserci fa parte della vita. Capire se il tempo è stato sprecato.